Europa 24. Buongiorno da Gigi Donelli. Dunque, l'Europa oggi significa soprattutto Tobin Tax, giorno infatti decisivo per la tassa sulle transazioni finanziarie voluta da 11 paesi dell'UE, dunque 11 su 28, e questa è sicuramente una parte della storia. Ma sentiamo la cronaca da Bruxelles, Beda Romano. 10 paesi della zona euro hanno annunciato oggi un accordo politico per introdurre entro il 1 gennaio 2016 una tassa sulle transazioni finanziarie. L'intesa, tutta ancora da negoziare, riguarda oltre all'Italia anche la Germania e la Francia. Popolare presso ampi settori dell'elettorato europeo, la nuova imposta non piace tuttavia a molti paesi, a cominciare dalla Gran Bretagna, dalla Svezia e dalla Danimarca. I paesi coinvolti dall'iniziativa dovranno negoziare a livello tecnico e le trattative non si presentano facili, anche perché la questione è controversa nei paesi favorevoli. Il governo inglese è pronto a fare ricorso dinanzi alla Corte Europea di Giustizia, se vedrà rischi di extraterritorialità o danni per l'economia inglese. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. 11 paesi disponibili, 10 che firmano questa mattina, mentre la Grecia prende tempo su questo punto, ma insomma il testo proposto intanto impone una tassa veramente bassa, tra lo 0,01 e lo 0,1% sulle transazioni sui prestiti finanziari. Così spiega Zol Darvas, socio senior del think tank Bruegel, che sta per Bruxelles European and Global Economic Laboratory, con sede ovviamente a Bruxelles. I ritorni sarebbero tra i 34 e i 50 miliardi di euro se adottata dai 28 paesi, anche se secondo Darvas questa ipotesi è del tutto irrealistica, in particolare per il muro esplicito alzato dal Regno Unito. Comunque si creerebbe un nuovo budget, ci sarebbero anche altri aspetti positivi importanti con l'introduzione appunto di questa tassa. Sentiamolo. Può ridurre lo scambio finanziario ad altissima frequenza perché in numerosi mercati finanziari ci sono computer che hanno un algoritmo ed effettuano scambi più volte in un secondo. Questo trading eccessivo sembra non beneficiare molto e portare a instabilità finanziaria. La seconda principale ragione è che il testo proposto potrebbe avere un impatto anche oltre i confini degli 11 paesi interessati perché, per esempio, gli strumenti finanziari che sono trattati in questi 11 paesi sarebbero tassati anche se sono venduti in Londra, e inoltre tutte le società che hanno sede negli 11 paesi dovrebbero pagare una tassa anche se effettuano gli scambi a Londra, e quindi questa tassa avrebbe una rilevanza indiretta per le attività finanziarie londinesi, e questo certamente potrebbe ridurre il profitto nel mercato finanziario. E infine torniamo a Roma. Napolitano, troppe contrapposizioni sul percorso dell'integrazione dell'UE, dice: l'instabilità, la frammentazione politica suscitano in tutta Europa delle divisioni sul percorso di integrazione europea. Un allarme rilanciato questa mattina dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, parlando al termine, al Quirinale, al termine dell'incontro con il presidente sloveno Burt Pahor. Bene, con questo è tutto per le notizie dall'Europa, che tornano come sempre questa sera in Europa 24 Notte, e poi domani naturalmente nell'appuntamento delle 14. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.